Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un cordialissimo saluto. Eccoci al nostro appuntamento mensile dove ci poniamo alla scuola della parola di Dio facendo una lettura continuata di uno dei testi della scrittura. Dopo aver ultimato la lettura continua del Vangelo di Marco, in questi mesi noi stiamo percorrendo gli Atti degli Apostoli. Questo ci dà modo di confrontarci con l'identità della prima comunità cristiana, cercando in qualche modo di far nostra anche l'elemento, la vita, la fecondità, la spiritualità che caratterizzavano i discepoli della prima ora. Come sapete, in queste nostre trasmissioni, in queste nostre puntate, procediamo sempre seguendo due binari. Il primo binario è quello dell'ascolto, quindi della riflessione che io tengo sul punto degli Atti degli Apostoli in cui siamo arrivati. In questa trasmissione ci spingeremo dal versetto 32 del capitolo 4 fino al versetto 13-11 del capitolo 5, quindi leggeremo insieme ancora 20-25 versetti, facendo un passo in avanti nella lettura degli Atti degli Apostoli. L'altro binario è quello delle vostre domande, che caratterizza soprattutto la seconda parte della trasmissione. E come amo sempre sottolineare, la seconda parte non è meno importante della prima, perché il Signore spiega la parola di Dio non solo a chi la spezza, ma anche a chi ascolta. E allora un interrogativo, una domanda, una sottolineatura sono sempre preziosi per riprendere la riflessione e cogliere magari quegli aspetti che durante la riflessione possono essersi persi per strada. Invito quanti sono nella possibilità di farlo di prendere tra le mani un'edizione della scrittura, perché sappiamo che per comprendere bene un episodio, un brano, dobbiamo un pochino sfogliare la Bibbia, a volte bisogna riprendere tra le mani alcuni episodi anche dell'Antico Testamento, come sarà il caso proprio della riflessione che faremo oggi insieme. E ringrazio fin d'ora quanti da casa, dalle macchine, magari c'è chi sta tornando dal lavoro oppure chi è già in vacanza, quanti sono sintonizzati con noi attorno alla parola di Dio. La comunità che si raduna attorno alla parola di Dio è sempre una comunità feconda, quindi che ciascuno di noi deponga, metta davanti al Signore anche i propri bisogni, il proprio grazie, le proprie necessità, sapendo che questa comunione che si tesse tra noi rende la preghiera più forte, la condivisione più feconda. Ma mettiamoci all'ascolto del brano degli Atti degli Apostoli di quest'oggi. Iniziamo con la prima parte del brano, che sono i versetti dal 32 al 37 del capitolo 4. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Allora, questo brano, che viene in genere definito da un punto di vista letterario una sorta di sommario, cioè negli Atti degli Apostoli, durante la narrazione, Luca ci fa sostare un attimo per richiamare alcuni punti, i cosiddetti pilastri, su cui la comunità si costruisce. E il pilastro della coinonia, cioè della comunione tra i vari membri della prima comunità, viene ribadito in tre momenti della narrazione. uno al capitolo 2, che abbiamo già avuto modo di commentare, qui al capitolo 4, più avanti al capitolo 5. Quindi ben tre volte durante la narrazione dei primi capitoli Luca sottolinea l'elemento della comunione tra i fratelli, una comunione che si costruisce attorno a quattro pilastri sostanziali. Quando avevamo illustrato il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli avevamo utilizzato l'immagine della tavolozza dei colori principali, quindi avevamo utilizzato il giallo della coinonia, il giallo della comunione tra le persone, il rosso della frazione del pane, che richiama appunto il sacrificio, il dono di sé, il blu della preghiera, che richiamava appunto il rapporto con Dio, e infine c'era l'elemento fondamentale della didache, il nero della didache, quello che ci permette di scrivere, cioè dell'insegnamento degli apostoli. Nel sommario del capitolo 4, attorno a questi quattro elementi ne viene scelto uno che viene posto al centro, che è quello della comunione dei beni. L'elemento che caratterizza la prima comunità cristiana è un elemento di giustizia. Quanti hanno di più mettono a disposizione quello che loro hanno ai piedi degli apostoli, in modo che all'interno della comunità non ci sia nessuno che sia indigente. È una questione di giustizia, di equilibrio. All'interno della prima comunità cristiana una delle prime preoccupazioni è che non ci siano squilibri, per cui chi ha di più mette a disposizione di chi ha di meno quanto possiede, e garanti di questo equilibrio sono gli apostoli. Ovviamente al centro di tutto questo non c'è solo un criterio valoriale umano, al centro di tutto questo c'è il mistero di Cristo morto e risorto. Con grande forza, dice il versetto 33, gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande valore. Cioè il fatto che Cristo fosse risorto e vivesse nella comunità dei credenti rendeva possibile questo elemento di equilibrio. Ora, l'ideale del cuor solo e dell'anima sola che caratterizza la prima comunità, come si concretizza all'interno della comunità? Luca è molto attento a questo quesito. Sa che con l'andar del tempo, questo ideale che lui sintetizza nei sommari, al capitolo 2, al capitolo 4, al capitolo 5, potrebbe portare a delle obiezioni. Lui sa che questi sommari potrebbero ispirare grandi correnti positive all'interno della storia futura, e così sarà. Immaginate tutta la corrente, ad esempio, della vita consacrata. La vita consacrata sia in Oriente sia in Occidente trova in questi testi un punto di riferimento essenziale, e anche nei momenti di crisi si ritorna a questi testi come rilancio di quelle che sono le motivazioni che reggono la vita consacrata delle origini. Però Luca è anche cosciente che di fronte a questo quadro ideale qualcuno potrebbe dire: ma sì, ma in fondo è solo un quadro ideale, ben lontano dalla realtà. Ecco che dopo aver descritto questo sommario, Luca in modo molto semplice, ma anche in modo molto schietto, presenta due possibili concretizzazioni di questo ideale. Una concretizzazione positiva, nella figura di Barnaba, una concretizzazione negativa, nella figura di Anania e Saffira. Ecco, oggi noi dovremo confrontarci in questa trasmissione con la figura di Anania e Saffira, questi 11 versetti che sono versetti un pochino problematici per il lettore, perché ci troviamo di fronte alla concretizzazione del mistero della coinonia in modo sbagliato e al castigo che ne consegue dal Signore, un castigo che lascia senza fiato non solo i contemporanei di chi scrive, ma anche noi che leggiamo oggi a distanza di tempo. Ma soffermiamoci un attimo sulla concretizzazione positiva, cioè l'ideale si concretizza in modo positivo prima di tutto in una persona, la figura di Barnaba. Leggiamo i due versetti che per il momento Luca dedica a questa figura. Versetto 36. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Bene, l'ideale della coinonia si realizza fin dall'inizio con una figura, un certo Giuseppe, che è un levita, quindi uno che appartiene alle classi sacerdotali, originario di Cipro, è uno che viene dalle zone della diaspora, non è uno di Gerusalemme. Quello che è significativo è che il modello di Barnaba, capace di vivere fino in fondo l'ideale del cuor solo e dell'anima sola, farà di questa figura una figura ponte delle origini cristiane. Barnaba è il primo personaggio, è la prima persona esterna al gruppo dei dodici che giocherà un ruolo importante nelle origini cristiane. E che cosa lo rende così fecondo? La capacità di vivere fino in fondo i pilastri della comunità delle origini, quei quattro pilastri che abbiamo elencato all'inizio: la coinonia, cioè la comunione dei beni, la fractio panis, il radicamento nel mistero eucaristico, la preghiera e l'insegnamento degli apostoli. Ora, perché Barnaba sarà fecondo nella storia delle origini cristiane? Perché può essere definito una figura ponte? Prima di tutto perché attraverso di lui il cristianesimo delle origini si apre oltre Gerusalemme. Barnaba è quello che apre le porte del cristianesimo ad Antiochia. Questo figlio dell'esortazione è colui che ad Antiochia consolerà in un momento di prova la comunità nascente della città, facendo nascere la comunità cristiana di Antiochia, cioè consolidando, scusate, la comunità cristiana di Antiochia e facendo della comunità cristiana di Antiochia la seconda chiesa madre delle origini cristiane, subito dopo quella di Gerusalemme. Ma Barnaba è anche una figura ponte tra i dodici e Paolo. Sappiamo molto bene, è stato Barnaba, sarà Barnaba ad andare a chiamare Paolo, portandolo con sé ad Antiochia e non solo, presentando Paolo anche al consesso dei dodici. È questa figura quella che media, dopo la rivelazione di Paolo sulla via di Damasco, è quella che media l'inserimento di Paolo nella comunità delle origini. E sappiamo cosa questo ha voluto dire. L'inserimento di Paolo nella comunità delle origini spacca un certo fissismo, una certa chiusura, un certo timore che caratterizzava l'esperienza delle origini. Infine, Barnaba è una figura ponte tra la ricerca di una identità interna, cioè una comunità che si interroga su di sé, e una comunità che viene lanciata verso la missione. Ricordiamo, la prima esperienza missionaria delle origini cristiane è guidata da una delegazione che vede coinvolti Barnaba e Paolo, dove però il capofila all'inizio della missione non è Paolo, è Barnaba. Ora, queste caratteristiche Barnaba riesce a viverle perché? Perché incarna dentro di sé l'ideale delle origini. Quindi l'ideale delle origini, ci dice Luca, è possibile viverlo, e lo dimostra la figura di Barnaba, lo dimostra la scossa che nella storia, nei secoli futuri, anche daranno alcune realtà, soprattutto legate alla vita consacrata. Quindi la scossa, quando uno vive in profondità il mistero delle origini, contribuisce con una scossa alla storia che lui vive. Certamente questo ideale delle origini può anche essere vissuto male. Possiamo dire che Barnaba incarna anche l'emblema dei dodici che ritroviamo nei Vangeli. Se voi prendete ad esempio sempre il Vangelo di Marco, nel momento in cui viene delineata l'identità dei dodici, Marco mette subito sul tavolo le caratteristiche di questi dodici. Non devono portare niente con sé, devono essere totalmente poveri, proprio all'insegna di questo equilibrio che li mette in rapporto agli altri allo stesso livello. Tranne due cose, devono portare due cose, il bastone e i sandali. I sandali come segno della missione devono camminare molto, il bastone come segno di guida da un lato e di difesa dall'altro, elementi che troviamo incarnati in Barnaba. Lasciamo però un breve stacco musicale prima di fare un ulteriore passo e confrontarci con questa pagina un pochino disorientante degli Atti degli Apostoli, cioè i versetti 1 e 11 del capitolo 5, che ci mettono a confronto con una coppia, Anania e Saffira, che non vivono fino in fondo questo ideale. Quindi un breve stacco musicale in cui vi invito magari a rileggere i versetti dal 32 al 37, dopodiché leggeremo insieme questi 11 versetti del capitolo 5. Allora, riprendiamo la nostra conversazione vedendo come l'ideale delle origini cristiane, se trova una realizzazione in Barnaba, trova invece una concretizzazione negativa nella figura di questa coppia, la coppia di Anania e Saffira. Leggiamo il testo. Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e, tenuta per sé d'accordo con la moglie una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: «Dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo?» Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito. Porteranno via anche te». Ella, all'istante, cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Ecco, questo è l'episodio su cui ci soffermiamo nella nostra riflessione, nella nostra meditazione. È un episodio sconcertante, due figure colte d'infarto, praticamente, che muoiono sul colpo, due figure che sono figure di rilievo all'interno della prima comunità. Questo brano è stato letto, interpretato lungo i secoli dai padri della Chiesa nei modi più diversi. Da un lato c'è chi ha evidenziato il potere e il ruolo di Pietro, facendo tutta una riflessione sulla scomunica o la non scomunica. Teniamo presente i primi secoli della Chiesa, sono secoli molto provati da un punto di vista dottrinale dell'eresia, per cui questo testo era un po' l'emblema del ruolo di Pietro, quindi una lettura, si può dire, istituzionale. Altri padri della Chiesa hanno evidenziato in questo brano il peccato della cupidità, un peccato che porta alla morte di coloro che si lasciano afferrare, si lasciano imprigionare dalla cupidità. Alla fine la cupidità, il voler ammassare, come dire, inghiotte chi vuole sempre di più. Alla fine è lui la prima vittima che viene fatta dal voler continuamente mettere da parte o tenere per sé. Altri vi hanno visto un racconto, in termini tecnici viene detto un racconto eziologico, cioè quei racconti che servono per spiegare un mistero nella comunità delle origini. Cioè i primi cristiani, secondo alcuni studiosi, non si spiegavano come mai, se il Cristo risorto viveva dentro di loro, alcuni nella comunità continuavano a morire. Perché erano convinti che nessuno avrebbe più visto la morte dopo la risurrezione di Gesù. Gesù sarebbe tornato presto come Messia del cielo e della terra e li avrebbe condotti direttamente in paradiso senza passare attraverso la morte. E allora all'inizio si cercava di spiegare questa cosa dicendo: chi sono quelli che muoiono? Muoiono quelli che non si comportano correttamente secondo l'ideale delle origini. Ovviamente era una lettura totalmente fuorviante. Altri invece cercano di fare una lettura contestuale, per cui dicono: in questo brano Luca non fa altro che riprendere alcune modalità di vita che caratterizzavano alcuni gruppi dell'ebraismo del primo secolo. Pensiamo a Qumran: chi non rispettava alcune regole all'interno della comunità veniva respinto dalla comunità, veniva punito ed estromesso dalla comunità, quindi la morte come estromissione della comunità. La lettura che a noi sembra più corretta di questo brano è la cosiddetta lettura tipologica, cioè qui Luca, nella figura di Anania e Saffira, raccoglie in due persone, tra l'altro non è un caso che venga scelta una coppia, poi vedremo perché, individua in due persone il peccato che può toccare tutta la comunità e fa di queste due persone quelle che rivivono su di sé il peccato che ha già caratterizzato la storia di Israele. In altre parole, Anania e Saffira, a distanza di tempo, riprendono quello che è successo a Adamo ed Eva agli inizi della storia della creazione, quello che è successo a Giuda agli inizi della nuova creazione che Gesù stava portando con la comunità dei giovani, dei dodici, ripetono lo stesso peccato che era successo ai tempi di Giosuè con Acan, nel momento in cui il popolo stava nascendo come popolo. Quindi siamo in tre momenti della storia diversi da quello di Anania e Saffira, che sono però tutti racconti delle origini. Adamo ed Eva è la storia delle origini del mondo, Acan in Giosuè è la storia delle origini del popolo di Israele, Giuda è la storia delle origini della nuova comunità fondata da Gesù. Tutti e tre questi racconti, quello di Adamo, del peccato delle origini di Adamo ed Eva, quello di Acan ai tempi di Giosuè o quello di Giuda ai tempi di Gesù, tutti e tre questi peccati sono peccati contro la coinonia, sono peccati contro l'armonia delle origini, contro la comunione tra l'uomo e suo fratello, tra l'uomo e Dio. Ma vediamo un po' di analizzarli nel dettaglio. Primo episodio che sembra essere evocato è l'episodio del peccato delle origini, l'episodio di Adamo ed Eva. I parallelismi tra il peccato originale e l'episodio di Anania e Saffira sono diversi, ne possiamo contare almeno 5. In entrambi i casi noi siamo di fronte all'inizio di una storia, che è una storia particolarmente segnata dall'armonia. L'abbiamo sentito poco prima nel racconto di Luca, addirittura diceva che tutta la gente guardava con favore questa comunità. È un racconto che spinge molto sull'ideale, perché poco prima, al capitolo 4, Luca dice che erano molti anche quelli che li invidiavano e che cercavano il male di questa comunità. Invece qui, poco prima del racconto di Anania e Saffira, tiene a sottolineare soprattutto l'armonia. La stessa cosa avviene nel racconto delle origini. Dopo la creazione si sottolinea l'armonia tra la creazione e Dio, tra Dio e le sue creature. Secondo aspetto, l'insidia. L'insidia si fa strada grazie all'azione di Satana, che è nascosto nel racconto della Genesi dietro le sembianze del serpente, mentre qui viene palesato per nome. Pietro dice a Anania: perché Satana ti ha riempito il cuore? Ed è curioso, perché avviene, questo brano potrebbe essere benissimo preso come un ulteriore commento alla parabola che abbiamo ascoltato ieri nella pagina del Vangelo, quella della zizzania e del buon seme, no? Ieri Papa Francesco nell'Angelus ha fatto una lettura straordinaria di questa parabola, aiutando a fissare l'attenzione su come il male si infiltra. Qual è la logica della zizzania? Il seminatore della zizzania, diceva, arriva di notte. Il male non viene seminato in un campo a parte, ma viene seminato in mezzo al bene, al punto tale che non è facile distinguere l'uno dall'altro, tanto vero che lo stesso Anania e Saffira non è che intascano tutto, intascano una parte, dicono: ma sì, teniamone una parte, l'altra la deponiamo ai piedi degli apostoli, tanto si può fare equilibrio anche in questo modo. Quindi l'insidia si fa strada in questo modo, così come alle origini della storia della creazione. Satana non è che si presenta, si palesa subito sotto l'insegna del male, instiga un dubbio, solleva una domanda, adombra il volto di Dio. Terzo aspetto, la disobbedienza viene portata avanti nel segreto. Dopo essere stato maturato, viene in qualche modo taciuto e occultato. Anania fa finta di niente, addirittura si sono accordati lui e la moglie per dire: l'abbiamo venduto a questo prezzo. Quindi sono un pochino, fanno le cose di nascosto. Ugualmente, la stessa logica è la logica che utilizza il serpente, si insinua nel nascondimento. Quarto aspetto, sia nel libro della Genesi che negli Atti degli Apostoli, gli effetti dell'atto hanno a che fare con l'espulsione. È un'espulsione dal paradiso per quanto riguarda Adamo ed Eva, dalla comunità per Anania e Saffira. E accanto all'espulsione c'è la morte, che è morte spirituale per Adamo ed Eva, che vengono cacciati dal paradiso e sentono, si aprono loro gli occhi e si accorgono di essere nudi, quella nudità evoca la situazione creaturale di morte, sentono che portano la morte su di sé, e una morte concreta, caratterizzata da un infarto immediato da parte di Anania e Saffira. Infine, notiamo nell'uno e nell'altro caso, l'origine della colpa è collocato nel quadro di una coppia. Ecco, su questo bisogna fare attenzione, perché Luca, nel suo racconto del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, è molto sensibile al discorso della coppia. Tutto il suo racconto, quello della storia di Gesù e quello della storia delle origini cristiane, è costellato da coppie, perché Luca ritiene che la prima cellula della comunità cristiana è la Domus Ecclesiae, e la Domus Ecclesiae, cioè la comunità cristiana, si ritrova nelle case. Qual è l'elemento che raccoglie una casa? La famiglia. E quindi troviamo che tutto il racconto di Luca si snoda attraverso figure familiari. Pensate l'apertura del Vangelo, abbiamo subito all'inizio due tipologie di coppie diverse tra di loro, da un lato Zaccaria ed Elisabetta, dall'altro abbiamo Giuseppe e Maria. Poi abbiamo le coppie delle figure affini, Simeone e Anna, che non sono marito e moglie, però sono due persone che in modo complementare vivono la profezia all'interno del Tempio. Ci sono le coppie nelle parabole, per cui abbiamo il seminatore che getta il seme nel campo e la donna che mette il lievito nella farina. Abbiamo il pastore che perde la pecora e la donna che perde la dramma. La dramma abbiamo i discepoli che seguono Gesù, ma anche abbiamo molte donne che seguono Gesù. Al capitolo 8 vengono ben dedicati 3 versetti al discepolato femminile. E via via, su quest'onda, molti arrivano a dire che persino i discepoli di Emmaus, di cui uno è nominato per nome, l'altro no, siano una coppia nel Vangelo di Luca, per dire come tutto è costruito attorno a questa, alla realtà familiare che è l'emblema della comunione. Ora, agli inizi della comunità cristiana, è una coppia, quella di Anania e Saffira, che compie il peccato delle origini, è una coppia che non vive la comunione, vive la comunione al contrario, perché si accordano per fare il male. Ora, cosa ci porta a dire questa lettura che mette in parallelo la storia di Anania e Saffira con la storia di Adamo ed Eva? Ci dice che la mancanza di giustizia nella comunione dei beni è stato il peccato originale della prima comunità. E guardate che se noi prendiamo sul serio questa espressione, il nostro modo di vivere il cristianesimo e la vita comunitaria nelle nostre parrocchie, guardate che è messo con le spalle al muro, perché ci viene subito detto che non è possibile che in una comunità parrocchiale, in una comunità religiosa, in un paese dove uno vive, ci possano essere delle discrepanze tali per cui uno può abbondantemente vivere negli agi più immaginabili possibili e un altro invece non ha magari da mangiare, da dormire, da lavorare. È un invito a farsi carico del fratello e della sorella per una vita dove la giustizia è l'equilibrio tra le persone. Questa pagina, riletta alla luce di Adamo ed Eva, diventa un pugno nello stomaco di fronte a quei dislivelli che caratterizzano la vita sociale di oggi, dove la discrepanza tra i pochi ricchi e i molti poveri aumenta sempre di più, con la riduzione addirittura delle classi intermedie, per cui le classi intermedie di chi vive una vita di medio livello si riducono sempre di più per creare questa distanza tra i grandi ricchi, pochi ma che possiedono in percentuale buona parte delle risorse del pianeta, e i molti poveri che assumono i volti delle persone più diverse, da chi vive la violenza della guerra, chi cerca speranza in terre lontane e così via. Diventa un pugno nello stomaco. Anania e Saffira allora non sono due figure lontane nel tempo, ma rischiano di essere due figure che vivono in noi, che ci tratteniamo parte di quel ricavato che dovremmo invece mettere ai piedi degli apostoli per una vita più giusta e più equilibrata tra le persone. Questo però è solo un'icona che serve per illustrare i versetti 1-11 del capitolo 5. Altri ritengono che dietro la scena di Anania e Saffira ci sia un altro episodio, che è l'episodio che troviamo al capitolo 7 del libro di Giosuè. Ora, prima di leggere questo episodio, facciamo ancora un breve stacco musicale, in modo che magari potete riprendere questi 11 versetti del capitolo 5, dopodiché leggeremo il brano di Giosuè, cercando di mettere in sintonia quello che è successo ad Anania e Saffira con quello che è successo ad Acan, quindi un breve stacco musicale. Allora, noi abbiamo commentato il capitolo, questi 11 versetti del capitolo 5 degli Atti, sullo sfondo di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva sono posti alle origini della storia della creazione. Dicevo che un altro modello che serve per illustrare questi versetti è la scena che coinvolge Acan. L'episodio che leggeremo adesso, i versetti da 16 a 26 del capitolo 7 del libro di Giosuè, viene posto subito dopo la distruzione di Gerico. Sappiamo che la distruzione, il crollo delle mura di Gerico, la distruzione di questa città, è il preludio dell'ingresso nella terra promessa. Quindi siamo proprio all'inizio, alle origini di una nuova pagina della storia di Israele, dove nasce un popolo che ha come suo emblema la terra che va a possedere. Ora, subito dopo la distruzione di Gerico, Dio aveva dato un ordine molto preciso, quello di votare a lui, votare allo sterminio, così erano le usanze del tempo, tutto quello che Israele avrebbe trovato, cioè Israele non doveva prendere possesso di niente che fosse della città di Gerico, né persone, né cose, né animali. Tutto doveva essere lasciato lì perché poteva rischiare di diventare una, come dire, un tradimento, una tentazione, un ostacolo nei confronti di Dio. Cosa succede? Succede che tutto procede, il popolo riesce a entrare nella terra promessa, Gerico cade, prima però di entrare in Israele occorre abbattere un'altra città, è la città di Ai. In lotta con la città di Ai succede che Israele viene sconfitto e allora Giosuè si chiede come mai Israele ha subito una sconfitta e gli viene fatto capire da Dio che la sconfitta è dovuta al fatto che c'è qualcuno all'interno del popolo che non ha rispettato la logica di Dio, cioè si è impadronito di qualcosa che non doveva, di cui non doveva impadronirsi a Gerico, e questa è stata la causa della sconfitta. E allora sentiamo cosa fa Giosuè. Giosuè si alzò di buon mattino, Giosuè non sa chi sono i responsabili, eh? Giosuè si alzò di buon mattino, fece accostare Israele per ogni tribù e venne sorteggiata una tribù, la tribù di Giuda. Fece accostare tutti i casati di Giuda e ne sorteggiò uno. Venne sorteggiato il casato dei Zerachiti, fece accostare il casato dei Zerachiti per famiglie e venne sorteggiata la famiglia di Zabdi, fece accostare la famiglia di Zabdi per individui, venne sorteggiato Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach della tribù di Giuda. Disse allora Giosuè ad Acan: figlio mio, da gloria al Signore Dio di Israele e rendigli lode. Raccontami dunque che cosa hai fatto, non me lo nascondere. Acan rispose a Giosuè: è vero, io ho peccato contro il Signore Dio di Israele e ho fatto quanto vi dirò. Avevo visto nel bottino un bel mantello di sinar, 200 sicli d'argento e un lingotto d'oro dal peso di 50 sicli. Li ho desiderati e me li sono presi, ed eccoli nascosti in terra al centro della mia tenda, e l'argento è lì sotto. Giosuè mandò incaricati che corsero alla tenda, ed ecco, tutto era nascosto nella tenda, e l'argento era sotto. Presero il tutto dalla tenda, lo portarono a Giosuè e a tutti gli israeliti e lo deposero davanti al Signore. Giosuè allora prese Acan, figlio di Zerach, con l'argento, il mantello, il lingotto d'oro, i suoi figli, le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e quanto gli apparteneva. Tutto Israele era con lui ed egli li condusse alla valle di Acor. Giosuè disse: come tu ci hai arrecato disgrazia, così oggi il Signore l'arrechi a te. Tutti gli israeliti lo lapidarono. Ecco, questa è la fine di Acan. Acan, con il suo gesto in cui aveva preso dal bottino quanto spettava al Signore, l'aveva nascosto sotto la tenda, diventa causa della sconfitta di Israele. E questa causa della sconfitta di Israele viene subito, come dire, svelata, scoperta e punita in questo modo. Tra l'altro viene qui menzionata la famosa valle di Acor, c'è nella preghiera liturgica delle ore il versetto dei Salmi dove dice che il Signore trasforma la valle di Acor, che quindi è la valle della punizione, la valle della morte di un'intera famiglia, la trasforma in porta della speranza, quindi il Signore è anche comunque capace di cancellare le pagine oscure della storia di Israele per rilanciare questa storia all'insegna della speranza. Ecco, l'episodio di Anania e Saffira, ripetuto nel momento in cui nasce una nuova comunità, che è la comunità cristiana, altro non sarebbe che la ripresa, ecco, di questo episodio. Anania e Saffira rappresentano con il loro gesto di cupidità e di cupidigia lo stesso pericolo che ha rappresentato Acan nella storia delle origini. Ancora una volta viene ribadito al lettore un principio di fondo. Il principio di fondo è questo: nella comunità cristiana delle origini tutti si devono sentire responsabili della comunità. Come l'uno è legato all'altro nei beni che ha, uno è legato all'altro in ciò che compie, per cui il peccato di uno si riversa su tutti, così come il dono di grazia di uno si riversa su tutti e tutti ne traggono beneficio. E quindi con questo episodio, secondo quei commentatori che vedono sullo sfondo di Atti 5 l'episodio di Giosuè, di questo capitolo, il capitolo 7 di Giosuè, Luca, tracciando le origini della comunità cristiana, vuole sottolineare la responsabilità che ogni credente ha all'interno di questa comunità. Ognuno può contribuire alla crescita della comunità e se non contribuisce alla crescita della comunità, contribuisce solo alla sua decrescita all'interno della comunità. Anche questo è un messaggio molto forte, perché ci fa capire come essere parte della comunità cristiana significa rimboccarsi le maniche. Non ci sta che in una comunità cristiana autentica, dove il Signore risorto vive in mezzo ai suoi, alcuni siano seduti e altri si danno da fare. Alcuni stanno ad aspettare le decisioni del parroco o della suora ed altri invece si danno da fare dando il loro contributo di idee. Tutti sono chiamati a vivere nella responsabilità, certo, nella misura di ciò che uno è, di ciò che uno fa, delle qualità che ha ottenuto dal Signore, dei suoi pregi e dei suoi limiti, ma tutti sono chiamati ad essere membra vive dell'edificio di Cristo. Ieri nella liturgia ambrosiana c'erano le due immagini stupende di Paolo per dire la comunità cristiana. Voi siete, diceva Paolo, il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io pianto, Apollo irriga, ma Dio vi fa crescere. E se Dio fa crescere, non è che c'è una piantina secca e l'altra invece già carica di frutti. No, nel campo di Dio tutte sono piante vive, devono essere tutte piante vive, uno pianta, l'altro irriga, ma Dio fa crescere. Terzo episodio che evoca, che sembra essere sullo sfondo del capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, vi dicevo, è l'episodio di Giuda. L'episodio di Giuda. Anche qui non è il caso di rileggere la scena di Giuda, ogni anno ci viene riproposta durante la Quaresima, però è anche qua molto, molto interessante vedere gli elementi di continuità tra Anania e Saffira e Giuda. Prima di tutto emerge in modo forte anche qui la segretezza dell'azione. Tutto matura in segreto, di nascosto, nella forma di un complotto, sia il tradimento di Giuda nei confronti di Gesù, sia il tradimento di Anania e Saffira nei confronti della comunità. In entrambi i casi Secondo aspetto, l'intero gioco ha a che vedere con il denaro. 30 denari per Giuda, una somma trattenuta per la coppia di Anania e Saffira. Terzo aspetto, tutte e due le scene descrivono uno scomodo protagonista di cui faremo volentieri a meno, è Satana, e in entrambi i casi Satana abita il cuore, prende possesso del cuore. Quarto aspetto, come Giuda è il primo che spezza l'idillio della comunità dei dodici, così Anania e Saffira sono i primi che spezzano l'ideale di una comunità che si presenta come il nuovo Israele, la nuova creazione, una comunità verso la quale tutti hanno un senso di venerazione e di stima. Infine, sia Giuda che Anania e Saffira ricevono un castigo tragico e violento che lascia senza parole il lettore. Teniamolo presente che proprio al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, Giuda, viene descritto il destino di Giuda in modo raccapricciante. Ecco, dagli elementi di questo parallelismo con Giuda possiamo dire che il peccato di Anania e Saffira non è solo il peccato delle origini della prima comunità, ma è un vero e proprio tradimento del disegno di Dio dal peso simile, se non uguale, a quello di Giuda nel contesto della passione e morte di Gesù. Quindi siamo di fronte, come vediamo, come avete avuto modo di vedere, a dei sommari dove sì ci vengono indicati i pilastri della comunità cristiana, soprattutto la coinonia tra i suoi membri, ma nello stesso tempo ci viene detto che questo pilastro è talmente importante che andare contro di esso sarebbe la ferita più dolorosa che la comunità cristiana rischierebbe di vivere. Ecco perché la Chiesa oggi più che mai invoca il dono della comunione tra i suoi membri, invoca il dono della coinonia tra le diverse confessioni cristiane, perché la rottura della coinonia è lo scandalo dell'unico corpo di Cristo. Allora, cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle, lasciamoci proprio interpellare da questi versetti che sono proprio un pugno nello stomaco nella narrazione degli Atti degli Apostoli. Sono versetti che ci dicono dove porta la via di chi trattiene per sé, porta alla sepoltura. E non a caso sono dei giovani che seppelliscono, perché mentre seppelliscono Anania e Saffira, questi giovani raccolgono un'eredità, un insegnamento che devono ben imprimere nel loro cuore per il futuro. Non dimentichiamo però che accanto ad Anania e Saffira ci viene presentato anche un modello positivo, che è quello di Barnaba. E Barnaba, con la sua generosità, con la sua prospettiva nel modo di vivere, apre alla prospettiva l'intera storia della Chiesa. Apre Gerusalemme verso Antiochia, apre la prima comunità cristiana alla missione, introduce soprattutto gli orizzonti di Paolo all'interno della prima comunità cristiana. E allora tra due stili di vita, uno che vive la coinonia, l'altro che invece non riesce a viverla, penso che l'attrazione vada direttamente sulla figura di Barnaba. Che il Signore ci dia la grazia di incarnarla e di viverla. Ecco, cari ascoltatori, questa meditazione sul primo binario l'abbiamo percorso, adesso è il momento dei vostri interventi, delle vostre domande. Lasciamo un breve stacco musicale in modo che la regia possa indicarvi il numero a cui chiamare e poi resto in attesa dei vostri interventi. Pronto? Pronto, eccomi, con chi parlo? Buonasera, sono Maria da Milano. Mi dica. Allora, senta, questo versetto di Anania e Zaffira mi ha dato sempre molto fastidio. Gli Atti degli Apostoli cosa vogliono significare la prima comunità? Cioè, questi signori avevano venduto un terreno. Non avevano detto agli apostoli che avevano preso una certa cifra, cioè voglio dire, l'avevano nascosta. Ma cosa può fare? Uno deve dare tutta la comunità, ed è una prima domanda. La seconda domanda, secondo me, il Signore, attraverso questi versetti, questi apostoli, così, voleva anche avvisare che il ricco, cioè uno che ha dell'eredità da lasciare ai nipoti, ai figli, o anche a degli amici, non è che, voglio dire, Satana mette nel cervello di questa gente e mezzo che muore così le facciamo morire e ce le prendiamo noi, cioè, perché questo che sta accadendo adesso, sta succedendo proprio questo, cioè l'anziano viene fatto fuori, così il figlio o il nipote o l'amico si prende l'eredità. Questa cosa mi ha dato sempre molto fastidio, me la vuole spiegare bene lei? La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie signora Maria per il suo intervento, capisco molto bene che questa pagina dia fastidio, perché è una pagina voluta da Luca in questo momento della narrazione, dove lui ha proprio delineato l'ideale della comunità delle origini, volutamente per dare fastidio. Allora cerchiamo, ecco, io non le garantisco di riuscire a spiegare a risolvere tutti i suoi interrogativi ovviamente, ma cerchiamo di delineare in modo molto sommario la risposta almeno alle sue due domande. Comincio dalla seconda. Lei evoca una situazione molto concreta, quella dei genitori anziani o con i figli e con il discorso noto dell'eredità, cioè chi ha qualcosa, chi viene dopo ovviamente è tutto interessato a prendere quello che uno magari ha raccolto con tanti sacrifici, con tanti sforzi. Se voi avete notato, nel racconto di Atti 5, la sottolineatura costante che viene fatta anche nel caso di Barnaba, che è la concretizzazione positiva della scena, è che tutto veniva deposto ai piedi degli apostoli, non veniva deposto altrove, non veniva deposto ai figli, veniva deposto ai piedi degli apostoli, cioè in coloro che sono garanti in qualche modo della distribuzione dei beni per l'equilibrio all'interno della comunità. Quello che Luca tiene a sottolineare quando delinea l'ideale della comunità cristiana è che all'interno della prima comunità cristiana non c'era nessuno che viveva un livello di miseria, di indigenza totale, cioè tutti in qualche modo avevano un equilibrio. Se noi facciamo anche una lettura, come dire, globale del Nuovo Testamento, notiamo che questo aspetto domina anche tutto l'apostolato di Paolo. Quando Paolo vive la missione nelle chiese fuori Gerusalemme, a Gerusalemme c'è una grave carestia che mette in ginocchio la città. Ora Paolo cosa fa? Raccoglie nelle comunità che lui fonda tutta una serie di risorse economiche che deporta e depone ai piedi degli apostoli, per dire, guardate che le comunità di Corinto, di Colossi, di Efeso, che stanno meglio di voi, sanno che principio della coinonia cristiana è l'equilibrio tra i membri e quindi vi mettono a disposizione i loro beni, le loro risorse, perché anche voi non viviate, ecco, una vita dignitosa. Quindi il discorso non è legato all'eredità genitori-figli, ma è molto più ampio, è legato a un equilibrio all'interno della comunità cristiana. In altre parole, qua viene concretizzato quel principio in cui l'altro è veramente fratello, sorella, e io mi devo sentire in qualche modo responsabile dell'altro, perché è una persona per il quale il mio Signore ha dato la vita. Se il Signore è vivo in mezzo a noi, è chiaro che ha dato la vita, quindi ha la stessa dignità che ho io, quindi non posso permettere che uno non abbia il necessario per vivere, mentre io me ne sto comodo e tranquillo. Quindi è in questa linea che va letto il brano. Seconda domanda, la seconda domanda è la prima che lei mi ha fatto, no? diceva, ma insomma, ma uno poteva tenere quello che voleva, perché Pietro se la prende così tanto con questi due che gli danno solo parte dell'incasso? Allora, una cosa è vera, nessuno era obbligato a dare quello che aveva e a metterlo ai piedi degli apostoli, nessuno. Quello che di cui Anania e Saffira vengono accusati, è la menzogna con cui agiscono, non è il fatto di non aver dato tutto, nessuno era obbligato a dare tutto, ma è la menzogna con cui vivono quel gesto. Si sono accordati dicendo che hanno venduto il campo per quel prezzo, non per metà. No. Se fossero andati da Pietro e avessero detto, senti, noi abbiamo venduto il campo per questo, abbiamo deciso di mettere a disposizione della comunità questa metà, non sarebbe successo niente. Però loro si fanno belli davanti a Pietro. E sapete perché si fanno belli? Perché Anania e Saffira, essendo possidenti di un campo, essendo possidenti di un bene, potevano diventare in questo modo, con questa bella faccia davanti a Pietro e alla comunità, i responsabili della comunità. Chi meglio di loro? Avevano venduto tutto, avevano messo i piedi degli apostoli, avevano comunque una casa grande, perché sennò come facevano avere un campo grande? Quindi era l'occasione giusta per diventare loro i capi della comunità. Come Barnaba da un lato diventerà il capo della comunità di Antiochia, Anania e Saffira erano pronti in un momento in cui Pietro era già in difficoltà perché aveva gli occhi puntati delle autorità religiose, per diventare loro la guida di Gerusalemme. Quindi sono dei trafficoni che trasformano un falso atto di generosità in qualcosa per scalare il grado sociale all'interno della prima comunità cristiana. È qui la menzogna che viene, che viene smascherata dallo Spirito Santo. E Pietro dice chiaramente, voi non avete mentito, voi non avete mentito a me, avete mentito allo Spirito Santo, e Satana, il divisore, ti ha riempito il cuore. È interessante anche questa frase di Pietro, perché nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli i cristiani vengono definiti come persone di cui lo spirito riempie il cuore, invece qui è Satana che riempie il cuore. Anche questo porta a una riflessione molto, molto schietta, molto, molto diretta. Il nostro cuore o è pieno di Spirito Santo o si riempie di altre cose, e se queste altre cose non sono lo Spirito Santo rischia di essere il nemico, se non c'è lo spirito c'è Satana, e Satana porta divisione, porta tensione, porta violenza, porta cupidigia e così via. Quindi penso che sia in quest'ottica, penso, signora Maria, sia in quest'ottica che dobbiamo leggere l'episodio di Atti 5. Grazie per la sua domanda. Pronto? Buonasera, sono Loriana da Cesena. E quest'ultima risposta che lei ha dato alla signora Maria, a me piace molto, mi piace moltissimo, però non mi voglio legare ai cristiani di quel tempo, ma ai cristiani di oggi, nella comunità, che c'è, soprattutto qui da noi, un efficientismo molto, molto, molto marcato. E io sono gioiosa di questo efficientismo, perché comunque nella comunità c'è bisogno anche di persone che si interessano e si occupano dei bisogni della comunità. E volevo solo chiederle se un sacerdote per qualsiasi decisione, anche banale, deve stare sottomesso a queste persone e comunque chiedere a queste persone il loro permesso, anche per cose banali. Grazie, la sento per te, per radio. Grazie signora Loriana per la sua domanda. Ovviamente toccare il tema della coinonia porta anche a domande come quella della nostra ascoltatrice. Se noi ci poniamo davanti al modello che viene proposto dagli Atti degli Apostoli, notiamo che gli Atti degli Apostoli evidenziano una corresponsabilità globale all'interno della comunità cristiana, pur nella differenza dei ruoli e dei compiti. Lo vedremo soprattutto quando commenteremo il capitolo 6. Il capitolo 6 è un altro momento in cui salta fuori il problema della coinonia e dell'equilibrio, cioè siamo in un momento difficile, la comunità cresce, ci sono i beni da mettere a disposizione, non sono molti, e cosa succede? Quelli di Gerusalemme dice, sentite, cominciamo a occuparci dei nostri, le vedove degli ellenisti, cioè quelli che vengono da fuori, ci pensiamo dopo. Il problema era, va bene, ci pensiamo dopo, però quelle vedove non avevano nessuno che le sostentava, erano sempre lasciate alla fine, restavano sempre senza niente. E allora all'interno della comunità cominciano a nascere i malumori. Cosa fa Pietro di fronte a questi malumori molto concreti? Raduna tutta la comunità. Poi, davanti alla comunità, sta lui con i dodici, pregano tutti insieme, poi è ovvio che dopo la preghiera insieme, dopo aver ascoltato e convocato tutta la comunità, ce n'è uno, c'è chi ha la responsabilità e deve decidere. E quindi alla fine prende in mano lui le cose, ma non decide da solo, fa in modo che la decisione sia in qualche modo condivisa e dice scegliete tra voi 7 persone, alcune persone piene di Spirito Santo che siano in grado di. E riconosce anche il suo limite, dice, noi abbiamo trascurato la parola di Dio per dedicarci alle mense. E allora sono nate le tensioni nella comunità. Quindi è interessantissimo il modo in cui Pietro, ma lo vedremo quando commenteremo il capitolo 6, fa un mea culpa, riconosce il suo peccato, coinvolge tutta la comunità, fa discernimento insieme alla comunità e permette allo Spirito Santo di agire all'interno della comunità. Tenere presenti tutti questi criteri non è facile in una comunità, però ci dice come vivere la coinonia, non è questione assolutamente di efficientismo, anzi l'efficientismo a volte ci fa perdere quel senso di mistero che caratterizza le opere di Dio. Noi siamo portati, proprio perché abbiamo una mentalità efficientista, come ci diceva la signora Loriana, siamo portati a fare le cose facendo sì che il bilancio non vada mai in passivo, tutto deve essere equilibrato, è vero che tutto deve essere equilibrato, ma nella logica di Dio non sempre i bilanci sono in attivo, ci possono essere dei momenti in cui i bilanci possono scendere in passivo, ma non ovviamente per trascuratezza, ma perché siamo portati, il Signore ci vuole portare a una riflessione maggiore, a un senso di responsabilità maggiore, a un abbandono maggiore nella provvidenza. E allora, ecco, tutte queste dinamiche, tutte queste dimensioni ci portano a custodire quel senso di mistero che caratterizza sempre la coinonia che viene dall'alto. Grazie quindi Loriana anche per il tuo interrogativo. Pronto? Sì, pronto. Pronto, con chi parlo? Sì. Giuseppe, dalla Sicilia, di Milano. Mi dica Giuseppe. Sento padre, io capisco già i suoi discorsi, no? Siccome sono una persona che non ho avuto tante scuole, no? Da 4 anni combatto questa vita e ho arrivato al punto di tante cose, vederle, capirle, però non trovo quel senso della fede profonda di continuare. Ho chiesto, ho bussato e non ci riesco a questo, capisco quasi tutto, padre. Dio mi ha dato questa forza, questa intelligenza, questa cosa, però non riesco a salire, per modo di dire così, nel semplice del mio io, sulla piramide, ma non è che io voglio la piramide, sì, entrare per avere un mondo più discreto, più migliore, io non credo, io non, cioè quando Dio mi dà la forza di poter aiutare il prossimo, di guarirlo, di fare tante cose positive, io sono felice, però ho tanta avversità, questa nube nera mi persegue, non sono riuscito da solo a poterla scacciare, ecco, mi spiego padre. Sì. La ringrazio Giuseppe per la condivisione di quello che lei sta vivendo e ovviamente richiederebbe il suo intervento di conoscere bene la sua situazione, quindi quello che le dirò spero che sia un pochino illuminato, se non lo dovesse essere mi perdonerà. Ecco, mi sembrava di cogliere dalle sue parole una duplice richiesta, no? La prima, emergeva un po' la pena per non riuscire a vivere fino in fondo quello che lei desidera dentro di sé, quindi una vita più autentica, una fede più forte. Ecco, sullo sfondo di quanto ci siamo detti oggi, no? Sulla coinonia, sulla dimensione comunitaria delle origini e delle nostre comunità cristiane, proprio situazioni come la sua vengono aiutate dalla comunità, cioè perché noi siamo chiamati a fare un cammino non solitario ma di comunione, perché nell'unico corpo di Cristo la linfa di uno diventa sostegno per l'altro, l'essere unico corpo diventa uno stimolo perché uno possa ricevere beneficio dall'altro, quindi chi ha poca fede riceve beneficio da chi ha una fede eroica, chi si sente debole riceve beneficio da chi in quel momento è forte o guida la comunità. Ci sono dei passaggi nelle lettere di San Paolo molto belli da questo punto di vista, dove Paolo, scrivendo ai fratelli, ai figli delle sue comunità, dice: carissimi, io sono nella tribolazione e dalla mia tribolazione so che voi siete fortificati, io patisco umiliazione perché voi siate glorificati, io vivo la morte perché in voi passi la vita. Cioè Paolo sente che nella logica del corpo di Cristo, nella fede del corpo di Cristo, tutto questo si attiva, c'è un dinamismo che passa e che è misterioso, che è dentro la logica di Dio. Dall'altro canto, nel suo intervento emergeva la sottolineatura di questo, di questa sorta di spirito nemico, no? Che uno si porta dentro e che non gli permette di gustare fino in fondo le cose. Lei diceva: io porto dentro di me questa cosa oscura da cui non riesco a liberarmi. Ecco, penso che ognuno di noi ha in qualche modo un ambito della propria esistenza in cui lo spirito nemico riesce a fare breccia in modo più forte rispetto ad altri ambiti. Magari in qualcuno è la dimensione della pazienza, in qualcun altro la dimensione dell'ira, in qualcun altro quello della gola. Cioè ognuno ha un punto debole della sua persona in cui lo spirito nemico riesce a entrare e lo tira giù. Anche qui qual è quello che ci permette di liberarci da questa presenza oscura che a volte ci avvinghia e ci porta in basso? È proprio il fare un cammino non da soli, lasciarci accompagnare dalla guida che il Signore ha messo davanti a noi per ciascuno. Ogni comunità ha il suo pastore, ha la sua guida, ha persone che all'interno della comunità danno un'ottima testimonianza di fede. A volte il confronto con quelle che un tempo e ancora oggi possono essere delle vere e proprie guide spirituali, un confronto semplice, regolare, non quelle lungaggini in cui si racconta la rava e la fava, ma in cui si parla di quello che uno vive è in modo semplice, umile. Ecco, questo può essere il modo in cui lo spirito nemico viene annullato, viene allontanato. Teniamo presente una cosa: di niente ha paura il demonio più che di un'anima umile. Più noi siamo umili, più il demonio se ne va lontano da noi, perché è il superbo per eccellenza. E l'umiltà permette al Cristo di vivere in noi. Figuratevi un po' se noi camminiamo umilmente con il nostro Dio e ci avviciniamo allo spirito nemico come questo cammina lontano da noi. Quindi grazie Giuseppe per la sua condivisione e spero, ecco, che queste povere parole possano in qualche modo esserle di aiuto. Pronto? Buonasera, sono Raffaele da Avellino. Mi dica, signor Raffaele. Senta, quando lei parla di Giosuè, che era la spalla, diciamo, il braccio destro di Mosè. Grazie. Sì, sì, sì, signor Raffaele, il Giosuè di cui parlavo è proprio il giovane che prende l'eredità lasciatagli da Mosè. Mosè, come sappiamo, nel lungo cammino verso la terra della promessa, non riesce a entrare nella terra della promessa. Anche qui un'immagine stupenda, perché Mosè è quello che vive la sua missione in totale sintonia con il popolo, e la sua totale sintonia con il popolo arriva al punto tale che si carica del peccato del popolo, e proprio per questo Mosè non riesce a entrare nella terra promessa, la vede solo da lontano, sul Monte Nebo. Tra 2 settimane io sarò con il gruppo della mia parrocchia proprio in quel luogo sosteremo su questa immagine di Mosè che solo da lontano riesce a vedere quella terra. Colui che realizza il nuovo popolo è Giosuè, e Giosuè è colui che praticamente fa propria l'eredità che gli ha lasciato Mosè, cercando soprattutto di trasmettere il senso del mistero di Dio al popolo, e introduce il popolo nella terra promessa. Però una volta che varcano il Giordano, è il passaggio del Giordano un po' come il passaggio del Mar Rosso, indica la nascita, è l'icona del parto, nasce un uomo nuovo, però prima di nascere l'uomo nuovo bisogna sconfiggere alcuni nemici. Questi nemici sono un po' impersonati nelle città, la città di Gerico, la città di Ai. Il problema è che quando si distruggono queste città bisogna stare attenti a non distruggerla da un lato, però poi stringere alleanza dall'altro, perché è rischioso. Queste forme di alleanza rischiano poi di portare nel popolo nuovamente modi di vita pagani, uno stile di pensiero diverso da quello di Dio. Ecco perché c'è l'episodio che abbiamo letto insieme, l'episodio del capitolo 7, dove Acan comincia con il bel mantello, ci veniva detto, però dal bel mantello passa i sicli e poi arriva anche un bel lingotto d'oro, e tutto lo nasconde sotto la tenda, senza rendersi conto che questo suo gesto, come capo casato, perché Acan è il capo di una famiglia, questo suo gesto porta la maledizione non solo sulla sua famiglia, ma la porta all'interno del popolo di Israele, rendendolo particolarmente esposto alla debolezza. Quindi sì, signor Raffaele, il Giosuè di cui parlavamo è l'erede di Mosè, quindi colui che più di ogni altro ha la responsabilità sul nuovo popolo voluto da Dio. Grazie per la sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera, sono Carmelo da Agrigento, sono brevissimo, padre, ma mi segua un attimo. Io è da 30 anni che leggo la Sacra Scrittura, anche con i gruppi ecclesiali, però dico, non sono ancora tanto convinto, e mi sento di avere sempre presente un Dio della vecchia alleanza, crudele, sembra che ordina anche l'uccisione dei bambini nelle conquiste, oppure il Salmo 137, prendi i bambini e sbattigli la testa al muro, eccetera, con il Dio presentato nella nuova alleanza, che è il Dio d'amore, dice San Giovanni, e Gesù piangeva vedendo le folle, eccetera. Dico, perché questa differenza tra l'antico e il nuovo? Là si ordinavano lapidazione, eccetera, e mentre nel Nuovo Testamento abbiamo tutto cambiato. È cambiato Dio o è cambiata, non lo so, dico, perché diversi parroci o sacerdoti o guide dei gruppi ecclesiali mi hanno dato sempre, ognuno una risposta diversa. Mi può certo dire qualche cosa di preciso? L'ascolto per radio. Grazie e buonasera. Grazie Carmelo per la sua domanda. Sono convinto che nella risposta che le darò sarò in sintonia anche con le risposte dei sacerdoti che hanno già affrontato questo argomento insieme a lei, no? Prima di tutto noi dobbiamo fare molta attenzione alla tendenza, una certa tendenza che purtroppo è ricorrente, di mettere in opposizione l'Antico e il Nuovo Testamento. Tra l'Antico e il Nuovo Testamento c'è una continuità, dove lo stesso risorto lo dice ai discepoli di Emmaus per far capire chi è lui, spiegò nella legge, nei profeti, quanto a lui si riferiva. L'antico, noi lo possiamo, l'antica alleanza la possiamo cogliere nella sua pienezza attraverso la nuova, e la nuova la possiamo comprendere attraverso l'antica. Scene di violenza ci sono nell'antico come nel Nuovo Testamento, e la pagina che abbiamo letto oggi, capitolo 5, ne è una prova. La pagina del capitolo 5 degli Atti degli Apostoli sta alla pari del capitolo 7 del libro di Giosuè, punto. Non è vero che nelle pagine dell'Antico Testamento non ci sono immagini della tenerezza di Dio, ci sono alcune scene che aprono il cuore nelle pagine dei profeti, basta sfogliare alcuni capitoli di Isaia dove Dio si presenta come una madre le cui viscere soffrono per il figlio, chiama Giacobbe, chiama un popolo ribelle vermiciattolo di Israele, utilizza le immagini dell'agnello, della pecora e altre immagini di tenerezza come quelle ad esempio che possiamo trovare nel Cantico dei Cantici per dire la sua passione per l'uomo, spinge i profeti a gesti inconsulti per spiegare il suo amore del popolo. Immaginiamo un Dio che spinge il profeta Osea a prendere come moglie una prostituta e ad amarla fino in fondo, per far capire che Dio ama il suo popolo così, non gli interessa i peccati che compie, ma spera che il suo amore trasformi il cuore del popolo. O pensiamo anche a alcuni passaggi dei Salmi. Ovviamente ci sono anche scene molto più violente, molto più dure, però anche qua dobbiamo tenere presente che la narrazione biblica si incarna sempre nei codici narrativi di chi scrive. Ora, chi viveva 10 anni prima di Cristo viveva in un mondo dove alcune modalità di relazione che arrivavano alla vendetta, che arrivavano allo sterminio, che arrivavano ad alcuni gesti inconsulti, facevano parte dello stile di vita, purtroppo, e facevano parte anche del modo in cui era concepito il rapporto con Dio, purtroppo. Ora, cosa notiamo noi nella letteratura biblica? Notiamo una progressione. Lentamente nella storia biblica notiamo che Dio riesce a educare il popolo a non introdurre il concetto dei sacrifici umani, della vendetta contro l'altro, di una certa violenza per cui se tu mi fai una ferita io te ne devo fare due. La famosa legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, è una legge che è stata introdotta in questo percorso di progressiva presa di coscienza di Dio per tamponare una violenza che rischiava di andare fuori di misura, per cui a un certo punto nel popolo di Israele viene messo un limite e si dice: no, se uno ti fa una ferita gli puoi fare una ferita, non gliene devi far due, se uno ti toglie un dente gli togli un dente, non due. Era un modo per, come dire, tamponare questa violenza che chiama violenza e rischia di ingenerare un meccanismo che lo vediamo in azione ancora oggi, che non sai dove ti può portare. Quindi la rivelazione biblica è una rivelazione che è in progressione, è legata alla maturazione della concezione di Dio che c'è nell'uomo, e comunque Dio semina il suo volto misericordioso, il suo volto di amore viscerale, il suo volto di perdono dell'uomo e di pazienza nei confronti dell'uomo, sia nelle pagine dell'Antico sia nelle pagine del Nuovo Testamento, così come la misericordia che Dio che Gesù ha impersonato in sé nelle pagine del Nuovo Testamento era già evidente in quelle dell'Antico attraverso la missione dei profeti e dei santi, dei saggi che hanno attraversato quella storia. Grazie Carmelo per questa tua domanda, perché sono convinto che molte persone comunque portano questa domanda nel cuore. Pronto? Sono Marta da Pergusa, buonasera. Volevo solamente fare testimonianza della bontà di Dio anche ricorrendo a questo brano di Anania e Saffira, perché abbiamo visto la crisi, una situazione di difficoltà, e quindi siamo dovuti andare, smontare casa, perché appunto la crisi economica non ci permetteva più di poter sostentare tutto quello che si serviva, e quindi abbiamo deciso, insomma, a malincuore di dover ritornare alla casa paterna. Qui la chiusura del cuore di alcuni familiari è stata proprio serrata, e quindi non c'è stata accoglienza, addirittura siamo stati accusati come colpevoli, e quindi di tutta quella situazione, ciò che non è vero perché si vede, insomma, quello che succede, e quindi a un certo punto, visto la non accoglienza, addirittura proprio quasi tutto ostacolato, abbiamo detto andiamo, il Signore provvederà, perché a questo punto non c'era più modo di vivere in maniera, diciamo, dignitosa, e quindi siamo andati così, ci siamo avventurati, buttati nelle mani della provvidenza di Dio, che veramente grandemente ha provveduto per quello che noi dovevamo fare, o perlomeno sostentare le spese iniziali per ricostruire casa. E quindi dico sì, è vero, il Signore ha provveduto nella maniera migliore, perché nel caso di Anania e Saffira lì gli è stata tolta la vita, in questo caso a noi ha ridato la vita, e quindi ci ha ridato la gioia di avere una nostra intimità. Dico, ogni tanto penso cosa succederà, visto che questa mancanza di accoglienza, di amore nella propria famiglia, perché la comunità è famiglia, è mancata, e quindi hanno perso almeno l'occasione di poter dire davanti a Dio abbiamo accolto questi bisognosi. Comunque sempre lode a Dio, perché è stato grande come sempre lo è. La ringrazio. Grazie Marta per questa tua testimonianza, che ci aiuta a vedere come le pagine della scrittura si possono attualizzare oggi. Ovviamente nella tua vicenda, ecco, voi solo sapete tutti i dettagli, no, di questa storia, quindi noi la accogliamo prendendo quello che di buono emerge dal vostro racconto, cioè Dio che ha avuto comunque cura di voi e vi ha aiutato, vi ha accompagnato nel trovare una soluzione. Ecco, vedete, anche nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli la scena ha tinte così forti per sottolineare anche un aspetto del cuore di Dio. Prima di tutto per sottolineare che Dio ha cura dei suoi figli, ha cura della comunità, per cui non permette che due persone in vista e di alto rango come Anania e Saffira possano approfittare della comunità e mentire davanti a tutta la comunità, compromettendo fin dall'inizio il disegno delle origini. Qui abbiamo a che fare con un nuovo inizio. Se questo nuovo inizio è guastato fin dalle origini, può essere disastroso. Ecco, alcuni mesi fa è stato dato un film su Noè, Noah. Questo film che ha suscitato tante critiche, dibattiti. A me personalmente è un film che è molto piaciuto, soprattutto se uno lo legge nell'ottica della rinascita, no? In un mondo compromesso si avvia un disegno, Dio salva un resto e attraverso questo resto cerca di creare un mondo nuovo. Ecco, in quel film c'è il momento in cui la scena dell'arca, no, con la pioggia, con l'acqua, così si eleva sui mari, e c'è un momento dove la persona malvagia, attraverso una fessura dell'arca, riesce a infilarsi dentro, come se anche laddove c'è un disegno bello, il disegno delle origini di una nuova partenza, il rischio è sempre quello, che il male si infiltri attraverso una fessura, ma il male si infiltra sempre attraverso una fessura. E allora poi c'è l'intervento radicale, molto duro e così via. Ecco, anche nel capitolo 5 è così. All'inizio della nuova comunità il male rischia di infiltrarsi attraverso una fessura. E Pietro è drastico, ma attraverso la sua, il suo modo drastico di intervenire fa capire che Dio ha cura dei suoi e che il disegno di Dio non va preso alla leggera. E allora tutti assumono da questo un insegnamento forte. Ecco, cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio quanti sono intervenuti: Maria di Milano, Loriana di Cesena, Giuseppe dalla Sicilia, Raffaele di Avellino, Carmelo di Agrigento e l'ultima che è intervenuta, Marta da Perugia. Grazie, perché con le vostre domande, i vostri interventi avete davvero arricchito la nostra trasmissione. E io termino con la frase con cui chiudeva la prima lettura questa mattina nell'Eucaristia, no? Dove ci veniva detto: uomo, tu sai cosa vuole il Signore da te. Vuole che tu pratichi la giustizia, tu ami la bontà, tu cammini umilmente con il tuo Dio. Ecco, che il Signore ci aiuti a praticare la giustizia, ecco, in questa immagine di coinonia, ad amare la bontà per quello che è e soprattutto a camminare umilmente con il nostro Dio. Un caro saluto e auguri a tutti e una buona estate. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.